Terzo anello ad alta voce, Lord Jim di Joseph Conrad. Non tornò fino alla mattina seguente. Era stato invitato a fermarsi a cena e per la notte. Non aveva mai conosciuto un uomo meraviglioso come il signor Stein. Aveva in tasca una lettera per Cornelius, quello che deve essere licenziato, spiegò, perdendo per un attimo un po' della sua euforia. Ed esibì felice un anello d'argento come quelli usati dagli indigeni, che era molto consumato e conservava solo deboli tracce della cesellatura. Gli sarebbe servito di presentazione a un vecchio di nome Doramin, uno degli uomini più influenti della regione, un pezzo grosso, che era stato amico del signor Stein nel paese in cui aveva avuto tutte quelle avventure. Il signor Stein lo chiamava compagno d'armi. Bella espressione, vero? E come parlava bene l'inglese il signor Stein. Lo parlava con una strana intonazione, un accento nasale. L'avevo notato. L'anello gli era stato dato da questo Doramin. L'ultima volta che si erano visti, al momento del congedo, si erano scambiati dei regali. Era una specie di promessa di eterna amicizia. Una volta il signor Stein gli aveva salvato la vita. Era stato un puro caso, aveva detto il signor Stein, ma lui, Jim, capiva che non era così. Mi impressionò, mi spaventò quasi con quel torrenziale entusiasmo. Era loquace come un adolescente alla vigilia di una lunga vacanza che promette divertimenti insoliti e avventurosi. E un atteggiamento mentale di questo genere in un adulto e in quelle circostanze aveva qualcosa di straordinario ed era un po' folle, pericoloso e malsano. Stavo per pregarlo perché prendesse le cose seriamente. Quando lasciò cadere coltello e forchetta, aveva cominciato a mangiare, o meglio, a ingollare inconsciamente il cibo e cominciò a cercare tutto attorno al piatto. L'anello, dove diavolo? Ah, eccolo lì! Vi chiuse sopra la grossa mano e si furgò in tutte le tasche una dopo l'altra. Per Giove, sarebbe stato un bell'affare perdere quell'anello. Meditò con aria grave sulla mano stretta a pugno. Rischiava di perderlo? Si sarebbe recato quel maledetto coso intorno al collo e procedette subito all'operazione tirando fuori uno spago che sembrava un pezzetto di laccio da scarpe di cotone per la bisogna. Ecco, fatto. Probabilmente io non mi rendevo conto, disse con un'ingenua solennità, di quanta importanza attribuisse a quel pegno. Voleva dire amicizia. Ed è gran cosa avere un amico. Ne sapeva qualcosa. Accennò a me con aria significativa, ma prima che mi schernisse con un gesto, appoggiò la testa sulla mano e per un po' di tempo rimase in silenzio, giocherellando pensosamente con le briciole di pane sulla tovaglia. «Sbattermi la porta alle spalle! Ha detto bene!» esclamò. «Sbattermi dietro la porta!» gridò. «Era quello che aspettavo. Farò vedere. Io sono pronto a tutto. È da tempo che lo sogno, per Giove. Questo è un colpo di fortuna, finalmente. Aspetti, io...» Che senso aveva tanta esaltazione in uno che aveva ricevuto l'incarico di impiegato in una ditta commerciale per di più destinato a una sede in cui il commercio era inesistente? Perché urlare la sua sfida all'universo intero? Non era la disposizione d'animo migliore per affrontare qualsiasi attività ed era sconveniente non solo per lui, gli dissi, ma per chiunque. Si fermò proprio sopra di me. «Davvero?» chiese, niente affatto scoraggiato da quell'osservazione, e con un sorriso in cui mi parve di scoprire all'improvviso qualcosa di insolente. Andò nell'angolo più lontano e, tornando, si volse verso di me per distruggermi, ben inteso, in senso figurato. Parlavo in quel modo perché io, persino io che ero stato infinitamente gentile con lui, persino io ricordavo a suo sfavore quello che era avvenuto. E che dire allora degli altri, del mondo? Perché meravigliarsi allora che volesse andar fuori, che intendesse andar fuori, che intendesse restare fuori, fuori dal mondo, per Dio? E io che parlavo di disposizione d'animo adatta. «Non sono io o il mondo a ricordare», urlai. «È lei che ricorda!» Continuò imperterrito con grande calore. «Dimenticare tutto e tutti, tutti!» Gli venne meno la voce. «Tranne lei», aggiunse. «Dimentichi anche me, se serve», risposi abbassando a mia volta la voce. Poi egli ricominciò, rasserenato, e mi disse che il signor Stein gli aveva dato istruzioni di aspettare per circa un mese per vedere se gli fosse possibile restare prima di iniziare a costruire una nuova casa per sé, per evitare spese vane. Usava espressioni strane, come Stein. Spese vane, non era male. Restare, ma certo, naturalmente, sarebbe rimasto se riusciva a entrare. Era fatta. Si impegnava a restare, non ne sarebbe più uscito. Restare era abbastanza facile. Non esageri, dissi, a disagio per il suo tono minaccioso. Se vivrà a lungo, le verrà la voglia di tornare. Tornare dove? Chiese distrattamente, con gli occhi fissi sul quadrante di un orologio sul muro. Tacqui per un po'. Sarà per sempre, dunque? Chiesi. Per sempre, ripeté lui con aria trasognata, senza guardarmi. E quindi fu preso da un'ansia febbrile. Per Giove, già le 2 e parto alle 4. Era vero. Un brigantino di Stein partiva diretto a Occidente nel pomeriggio, ed egli aveva ricevuto istruzioni di imbarcarsi senza che fosse dato l'ordine di ritardarne la partenza. Suppongo che Stein se ne fosse dimenticato. Si precipitò a prendere le sue cose mentre io andai a bordo della mia nave, dove egli promise di venire a farmi visita andando alla rada esterna. Comparve, come aveva detto, in tutta fretta, stringendo nella mano una piccola valigia di cuoio. Non era un bagaglio adatto, e gli offrì un mio vecchio baule di metallo che sarebbe dovuto essere impermeabile o almeno resistente all'umidità. Una pesante pistola e 2 piccoli caricatori erano posati sul tavolo della cambusa. «La prego, li prenda», dissi. «Possono aiutarla a restare». Non appena ebbi pronunciato queste parole, mi accorsi del sinistro significato che potevano contenere. «Possono aiutarla ad entrare». Mi corressi preso dai rimorsi. Ma egli non era rimasto turbato da oscuri significati. Mi ringraziò calorosamente e schizzò fuori, salutandomi senza girare la testa. Quindi, girandomi, la prima cosa che notai furono i 2 caricatori sul tavolo. Si era dimenticato di prenderli. Feci subito allestire la mia iole, ma i rematori di Jim, presi dalla paura che la loro vita fosse sospesa a un filo finché avevano a bordo quel folle, andarono così veloci che prima che io ebbi percorso la metà della distanza che separava le 2 navi, lo scorsi che scavalcava la ringhiera e si faceva issare il baule. Quando misi piede sul ponte, tutte le vele del brigantino erano state mollate. La vela principale era stata spiegata e lo sbovo stava cominciando a girare. Il capitano, un meticcio piccolo e azzimato di circa 40 anni, dallo sguardo vivace, vestito di flanella azzurra, con una faccia tonda color limone e baffetti sottili che cadevano spioventi ai lati delle spesse labbra scure, mi venne incontro con un sorriso compiaciuto. Nonostante la sua aria allegra e felice, dimostrò in seguito di avere un temperamento ansioso. In risposta a una mia osservazione, mentre Jim era sceso per un momento, disse: «Oh sì, Patusan!» Avrebbe portato il signore fino alla foce, ma su per il fiume lui non sarebbe mai asceso. Quando si volse di nuovo verso di me, parlò con giudizio, senza alterarsi. Avrebbe portato il signore alla foce del fiume a Batukring, la città di Patusan. Era situata internamente, osservò, a 30 miglia. Ma i suoi occhi, proseguì, perdendo tutta la vivacità con cui fino a quel momento aveva descritto i fatti e passando un tono stanco e annoiato, il signore era già assomigliante ad un cadavere. «Che cosa? Che cosa ha detto?» chiesi. Assunse un'espressione sorprendentemente feroce e mimò alla perfezione il gesto di una pugnalata alla schiena. «Già come il corpo di un deportato», spiegò, «con l'insopportabile boria degli individui della sua specie, quando credono di aver dato prova della loro intelligenza. Dietro di lui scorsi Jim, che mi sorrideva in silenzio e bloccava con la mano alzata l'esclamazione che avevo già sulle labbra. Quindi, mentre il meticcio urlava i suoi ordini gonfiando il petto per l'orgoglio, mentre i pennoni cigolavano oscillando e il pesante boma cominciava a ondeggiare, Jim ed io, praticamente soli nel lato sottovento della vela principale, ci afferrammo per le mani e ci scambiamo le ultime frettolose parole. Fu un momento di autentica e profonda intimità, inatteso e brevissimo, come la visione di una qualche verità eterna che ci riscatterà. Si sforzò di consolarmi come se fosse stato il più anziano fra noi 2. «Certo, certo!» disse con voce rapida e sincera. «Prometto di essere prudente, sì, non correrò rischi, nemmeno uno. Naturalmente no, voglio tener duro, non si preoccupi per Giove, ho la sensazione che nulla possa toccarmi, è la fortuna che mi chiama». La mia iole rimase sulla scia del brigantino e lo vidi stagliarsi a poppa alla luce del sole al tramonto e sollevare il berretto alto sulla testa. Udii un grido indistinto. «Sentirà? parlare di me. L'arrivo di Jim in quel villaggio di pescatori era stata una benedizione. Ma per loro, come per molti di noi, quella benedizione era stata preceduta dal terrore. Da quando l'ultimo bianco aveva visitato il fiume, si erano avvicendate tante generazioni che di lui si era smarrita persino la memoria. Vedersi comparire davanti quell'essere che chiedeva irremovibilmente di essere trasportato fino a Patusan era sconcertante. La sua insistenza era allarmante, la sua generosità era più che sospetta, era una richiesta inaudita. Non c'erano precedenti. Che cosa avrebbe detto il Rajah? Che cosa avrebbe fatto poi a loro? Gran parte della notte fu persa in consultazioni, ma il rischio immediato, rappresentato dall'ira di quello straniero, parve così grande che infine allestirono una malandata canoa. Le donne strillavano dalla paura quando partì. Un'impavida vecchiaccia maledisse il forestiero. Jim prese posto, come vi ho detto, sul suo baule di metallo, tenendosi in grembo la pistola a scarica. Sedeva immobile, attento a non fare movimenti bruschi, e non c'è nulla di più faticoso, e in questo modo fece il suo ingresso nella terra che era destinato a riempire con la fama delle sue virtù, dalle vette azzurre dell'interno al bianco nastro di spuma dell'oceano. Alla prima curva persa di vista il mare, con le incessanti onde che perennemente si levano, cadono e spariscono per sollevarsi di nuovo, l'immagine stessa dell'umanità in lotta, e si trovò di fronte alle foreste immobili, radicate profondamente al suolo, innalzate alla luce del sole, eterne all'ombra possente della loro tradizione, simbolo della vita stessa. E la sua occasione gli sedeva al fianco, velata come una sposa orientale che attende di essere scoperta dalle mani del suo signore e padrone. Infine, in un tratto lungo e sgombro, fu molto contento di vedere un esercito di scimmie scendere indisturbate fino alla riva e protestare fragorosamente al suo passaggio. Fu questo l'inizio della strada che lo portò alla grandezza, autentica quant'altre mai raggiunte da uomini. Desiderava soprattutto che scendesse il tramonto. Nel frattempo i suoi tre rematori si preparavano a mettere in esecuzione un piano per consegnarlo al Rajah. «Dovevo essere istupidito dalla fatica, o forse mi sono appisolato per un po'», disse. La prima cosa che capì fu che la canoa stava andando a riva. In quell'istante si rese conto che avevano lasciato indietro la foresta e si accorse delle prime case visibili davanti a loro, della palizzata alla sua sinistra e degli indigeni che saltavano giù tutti insieme in un punto basso della sponda e se la davano a gambe. Istintivamente balzò fuori e corse loro dietro. Dapprima pensò di essere stato abbandonato per qualche incomprensibile motivo, ma udì urla di eccitazione e il rumore di una porta che si apriva, seguito da una folla di persone che si riversavano fuori e si dirigevano verso di lui. Contemporaneamente una barca piena di uomini armati apparve sul fiume, affiancandosi alla canoa vuota per tagliare loro la ritirata. Ero troppo sbalordito per essere sufficientemente freddo, capisce? E se quella pistola fosse stata carica, avrei sparato, magari ammazzandone due o tre, e sarebbe stata la mia fine. Ma era scarica. E così rimasi immobile, e chiesi loro il perché di tutto quel chiasso. Questo sembrò ammutolirlo e vidi che un gruppetto se la stava svignando con il mio baule. Quel vecchio manigoldo di Cassim, domani glielo mostrerò. Venne da me con le sue lunghe gambe a dirmi che il Rajah mi voleva vedere. Bene, dissi, anch'io volevo vedere lui, e così attraversai la porta e... ed eccomi qua. Rise, e quindi dando alle sue parole un'enfasi imprevista. E sa qual è la cosa più straordinaria? Chiese. Glielo dico io. È il sapere che se mi avessero fatto fuori, sarebbe stato questo posto a rimetterci. Queste riflessioni le fece davanti alla sua casa, quella sera a cui ho accennato, dopo che avevamo osservato la luna allontanarsi sopra la fenditura fra le due colline come uno spirito che sale al cielo uscendo dalla tomba. Il suo lustro biancore scendeva freddo e pallido come il fantasma della luce solare appena morta. «Che pace qui, eh?» chiese. Non si dilungò molto a fare commenti, ma c'era un significato profondo nelle parole che seguirono. «Guardi queste case. Non ce n'è una in cui non abbiano fiducia in me, per Giove. Gliel'ho detto che avrei tenuto duro qui. Domandi a chiunque, uomo, donna o bambino.» Fece una pausa. «Sì, adesso le cose vanno bene.» Risposi subito che infine aveva trovato anche lui la sua strada. Aggiunsi di non averne mai dubitato. Scosse la testa. «Davvero?» Mi strinse leggermente il braccio al di sopra del gomito. «Ebbene, allora aveva ragione.» C'erano gioia e orgoglio miste quasi a sgomento nelle sue sommesse esclamazioni. «Per Giove!» disse forte. «Pensi solo a che cosa vuol dire per me!» Mi strinse nuovamente il braccio. «È lei che mi chiese se pensavo di andarmene, buon Dio! Io andarmene! Specialmente ora, dopo che mi ha detto del signor Stein! Andarmene! Ma sì! Era proprio questo, ciò di cui avevo paura. Sarebbe stato peggio della morte, no!» Parola mia, non rida, io devo sentire, ogni giorno, ogni volta che apro gli occhi, che la gente ha fiducia in me, che nessuno ha il diritto, capisce? Andarmene, ma dove, perché, a far che cosa? Gli avevo detto, e in realtà questo era lo scopo principale della mia visita, che Stein aveva intenzione di regalargli la casa e il deposito delle merci, peraltro a condizioni molto favorevoli, in modo che l'operazione risultasse una normale e regolare transazione commerciale. Dapprima accolse la proposta con dubbi e perplessità. «Al diavolo, la sua sensibilità!» urlai. «Non è affatto un dono di Stein, è un riconoscimento di quello che lei ha fatto!» Dovette cedere davanti alle mie argomentazioni perché tutte le sue conquiste, la fiducia, la fama, gli amici, l'amore, tutte queste cose che ne avevano fatto un gran signore l'avevano anche reso schiavo. Guardava con l'occhio del padrone la pace della sera, il fiume, le case, la vita infinita delle foreste, la vita di uomini antichi, i segreti della terra, l'orgoglio del proprio cuore. Ma erano queste cose che lo tenevano incatenato e che lo possedevano fino al pensiero più intimo, al minimo palpito, all'ultimo respiro. Era qualcosa di cui essere orgogliosi. Ero orgoglioso anch'io per lui, anche se non ero così certo del favoloso valore di quell'affare. Era meraviglioso. Non era tanto la sua temerarietà che pensavo. È strano in quanto poco conto la tenessi, come se fosse stata una cosa troppo convenzionale per essere all'origine di tutto. No, ero più colpito dalle altre doti che aveva esibito. Aveva dimostrato di saper dominare situazioni sconosciute, di avere la capacità di entrare in un nuovo ordine di idee. E la prontezza con cui aveva reagito, sorprendente. E tutto questo gli era venuto istintivamente, come un cane da caccia l'odore impercettibile della selvaggina. Non aveva facilità di parola, ma c'era dignità in quella naturale reticenza, c'era grande ponderatezza in quelle frasi incerte. Non aveva perso la vecchia abitudine di arrossire alle proprie ostinate impuntature. Tuttavia, di tanto in tanto, gli sfuggiva una parola o una frase che facevano capire quanto profondamente, quanto seriamente sentisse quel lavoro che gli aveva dato la certezza della riabilitazione. Ecco perché sembrava amare quel paese e quella gente, con una sorta di feroce egoismo, con un'altezzosa tenerezza.